silenzio in tutti. Salve, mi chiamo Achille Corea e ogni giorno vengo qui con un programma che si chiama Giro di Vita per parlarvi di gente che lascia l'Italia per andare all'estero, lascia il lavoro per mettersi in proprio, lascia la professione per inventarsi un mestiere, lascia casa per andare a fare il viaggio della vita. Insomma, ogni giorno c'è qualcuno che lascia qualcosa e voi lì potreste dire: sì, vabbè, anch'io vorrei un giro di vita, anch'io vorrei una nuova vita, ma io non voglio lasciare quella che ho. Quella che ho mi piace, quella che ho ci sono affezionato. Come faccio? Ecco, bravi, oggi parliamo proprio di voi. Oggi raccontiamo storie di chi ha due vite contemporaneamente. 800 24 00 24. Oggi non parliamo di chi lascia, parliamo di chi raddoppia. Tre minuti dopo le 4 del pomeriggio, martedì, bentornati a Giro di Vita. Oggi è tutto doppio, ve lo dico, quindi state pronti a telefonarci e a commentarci su Facebook alla pagina che si chiama appunto Giro di Vita e noi cominciamo a sentire Matteo, benvenuto. Ciao, ciao. Matteo, professione? Ufficialmente primo lavoro consulente finanziario per un grosso gruppo bancario internazionale. E secondo? Il secondo, l'oste, il barista in un bel locale qua nella città in cui vivo. Cosa hai cominciato a fare prima? Il consulente finanziario, vuoi per gli studi economici, vuoi per la mia passione anche per le questioni finanziarie e tutto quello che fa muovere il mondo poi in questo periodo. Ecco, di solito uno pensa che chi ha una cosa e ne cerca un'altra è perché nella prima non si trova bene. Tu come ti trovi come promotore? Funzioni, guadagni? Funziona? Assolutamente bene, perché penso che il lavoro innanzitutto deve dare, va bene, sicuramente deve piacere. A me appunto piace molto, appunto, come dicevo. Io penso che il mondo, insomma, sia mosso dalle questioni economiche, in particolare finanziarie, lo stiamo un po' verificando specialmente negli ultimi anni. E allora perché la sera, invece di metterti a casa a guardare la televisione, un film, la radio, quello che è, esci di nuovo da casa e vai a fare l'oste? Beh, devo dire la verità che mi è sempre piaciuto, insomma, io sono un nottambulo, effettivamente, è un po' stride con la mia attività, appunto quella principale, perché bisogna essere presenti, assolutamente bisogna essere sempre reperibili, però insomma mi mancava un po' questa parte, a continuare a stare in giro un po' la sera e addirittura il nottambulo, ecco. Quindi presente che mediamente quando appunto svolgo la seconda attività, appunto quella dell'oste, prima delle 2:30-3, spesso non riesco a andare a letto, insomma, e quindi mi manca. Come fai, un po' questa Matteo, parte. Come fai? Cioè, dove la trovi l'energia? Ecco, devo dire la verità che proprio la scorsa settimana ho compiuto 40 anni e devo dire che qualche cedimento effettivamente lo sto riscontrando. E quindi, insomma, le mie serate da oste le ho un po' ridimensionate. Attualmente quanto ne fai? Ma due, delle volte tre, ecco, visto che ho un ottimo rapporto con il gestore del locale, delle volte mi chiamano, non so, il lunedì di Pasquetta o addirittura l'ultimo dell'anno, insomma, chiaramente la mia compagna è contenta. Ah, ecco, tu hai una compagna, cioè come fate? Cioè tu la sera torni e lei dice: ah, stiamo un po' insieme? No, vado a fare l'oste. Beh, devo dire la verità, insomma, che lei prima di me, anche lei svolge due attività. Perché lei è un'ottima, lei è una fotografa, fa fotografo e spettacoli, quindi anche lei è spesso in giro. Ma insomma, quando vi vedete allora? Scusa, queste domande personali. Quando vi vedete? È di giorno e insegna in un istituto, insomma. Questa è una bella domanda. Devo dirti la verità che spesso ci prendiamo, beh, lei non è molto contenta, però spesso ci prendiamo, insomma, 1, 2, 3 giorni, 15 giorni e cerchiamo di Avete stare figli? Insomma. Avete figli? No, non abbiamo figli, non abbiamo figli. Quello potrebbe poi essere un problemino. Dimmi una cosa, tu hai una doppia identità, una cosa tipo Batman? Assolutamente sì, infatti questo è molto particolare, perché chiaramente incontro le persone di giorno, insomma, e mi vedono sempre in giacca e cravatta, grigio o blu mediamente, perché il nostro gruppo è abbastanza internazionale, abbastanza rigoroso. E nessuno sa che tu fai l'oste? In pochi, devo dire la verità in pochi, insomma, tengo abbastanza separate le due cose, devo dirti la verità che tra l'altro non mi pesa. E poi magari c'è, cioè, tutto appunto la sera, gli avventori, gli amici che mi vengono a trovare, insomma, che mi vedono in un'altra veste, qualche volta mi vedono appunto di giorno e stentano a riconoscermi, oppure dicono: ma sai che ho conosciuto qualcuno che ti assomiglia molto la sera, no? Dico: guarda che sono io. Senti, pensi che sceglierai alla fine una delle due cose e cosa? Ma guarda, insomma, devo dirti la verità che questa doppia vita ha 5 anni, che poi dico non è una doppia vita, ecco, ci tenevo un po' a precisare, ma è un complemento, insomma, quindi mi trovo molto bene. Quattro anni fa il gestore mi ha detto: ma vuoi entrare in società? E quindi questo avrebbe significato, insomma, rinunciare appunto al mio lavoro di giorno. E detto no. Devo dire la verità che, visto che riesco entrambi, e farli entrambi ancora, chiaramente ridimensionando poi il secondo, ma io dico, se sicuramente una grossa passione dei vini, se un giorno deciderò di lasciare il lavoro da consulente finanziario, sicuramente aprirò un'enoteca, un bar, o magari metterò in società con chi me l'ha proposto. Va bene, allora dai due consigli ai nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Matteo, per fare una cosa così, un giro di vita con due vite in contemporanea, che cosa bisogna portarsi dietro? Sicuramente quello che cioè, bisogna essere bravi e fortunati, cioè bisogna sentirsi e cercare appunto di seguire il proprio istinto. Devo dire la verità che io sono stato molto fortunato e riesco a fare entrambi con un ambito, con un tasso di libertà molto elevato, nonostante ho la giornata molto molto piena, però sentirsi, ecco. E la zavorra che bisogna buttare? La zavorra, io devo dire la verità che sono abbastanza disordinato, insomma, cioè questo è un aspetto negativo, nel senso che io vivo con 4-5 borse, valigie, e questa è abbastanza, in ognuna hai il costume da osteo di esatto. Va bene Matteo, ti ringraziamo. Era Matteo, promotore finanziario e oste, era la nostra prima tentazione e oggi ne abbiamo due, perché è una doppia vita, una puntata doppia anche nel tempo che abbiamo. C'è Giulia al telefono, pronto? Ciao Achille, buonasera a tutti. Giulia, dichiara i tuoi lavori. Ah, beh, qui non si raddoppia ma si triplica. Il mio primo lavoro è quello di agente di commercio. Io vendo servizi di vigilanza per un istituto di vigilanza privata. E questo è, diciamo, la mia prima attività, è quella che svolgo durante il giorno ed è quella che dovrebbe essere proprio la principale. Il secondo? Diciamo che però è l'ultima in ordine di tempo, perché okay. Già da una decina d'anni, diciamo, avevo 16-17 anni, ho iniziato a insegnare lo sport, che è stata la passione della mia vita, che è la ginnastica artistica, e questo è un lavoro, diciamo, una passione barra lavoro che continua da 10 anni. E poi c'è qualcos'altro? Sì, un anno fa ho avuto la fortuna di provare, buttarmi a capofitto in un'esperienza, diciamo, di amministrazione locale. Mi sono candidata qua nel comune dove sono nata e cresciuta, mi sono candidata al consiglio comunale, con mia grande sorpresa sono stata eletta e quindi adesso da un anno faccio parte del consiglio comunale. Vabbè, sono tre lavori con i quali potresti campare presi uno per uno, oppure no? Qualcosa? No, la politica a livello no. Locale ancora non forse siamo. Forse quello è quello meno redditizio, sì. Senti, come fai a mettere insieme le tre cose? Intanto dici, tu hai un fidanzato, un marito, dei figli? Sì, ho un fidanzato. E lui come, quando ti vede? Mi vede, diciamo che questo non è assolutamente un problema, perché lui ha una vita che forse è più piena della mia. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo problemi. Se è la seconda consecutiva che ci risponde dicendo che, insomma, anche dall'altra parte della coppia c'è qualcuno che fa molte cose. E, qual è il problema? Non so, un'agenda. Qual è il problema nell'organizzare tre vite contemporaneamente? Ti devo dire, non ho problemi. Non ho proprio problemi. È una dote un naturale, perché io forse. Anzi, ecco, quella ce l'ho io sentendo te, quindi figurati. È una sì, dote. Ma quella è un'ansia buona, quella che non ti butta in depressione. L'ansia quella, che aiuta le performance. Fare bene le cose. Ecco, esattamente. Senti Giulia, ti facciamo sentire uno spezzone di un film famosissimo. Una vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. E questa era Diego Abatantuono nel film Mediterraneo, che diceva: una vita sola non mi basta. Giulia, a te una vita basterebbe? Ti vedi in un futuro a fare una delle tre cose? Che ne so, la politica, a vendere o anche o insegnare danza? Io ho la speranza di non trovarmi mai a fare una cosa sola. Penso che questo sdoppiamento, in questo caso addirittura una triplice attività, sia quello che mi fa star bene. Credo però che vorrei forse provare a far entrare in questa attività una quarta, che forse ne potrebbe sostituire una. Olè, ma che giornate hai? Cioè, giornate da 40 ore, non lo so. Cioè... Diciamo che ho delle passioni, e un'altra passione purtroppo è... per adesso l'ho dovuta accantonare, perché non è possibile portarla avanti in questo momento. E qual è? È la passione del giornalismo. Io sono giornalista, sono iscritta all'Albo, fino a poco tempo fa ho praticato la professione, adesso per un po' di motivi non è più possibile. Capisco, però ho la determinazione nel voler riprovare a mettere anche nel mondo del giornalismo. Una quarta passione. Grazie per averci raccontato questa tua vita multipla. E se lo facessi io? 800 24 00 24, raccontateci le vostre vite in contemporanea. Però insomma, io ho delle domande, dei dubbi rispetto a questa forza, a queste doti che sento in queste persone che abbiamo sentito, e quindi volevo parlare con il dottor David Lazzari, che è primario del servizio di psicologia dell'azienda ospedaliera di Terni e autore di un libro che si chiama La bilancia dello stress. Dottor Lazzari, benvenuto. Salve, buonasera. Beh, lo stress a me già veniva sentendoli, devo ammetterli, due lavori in contemporanea, tre, forse ne faccio un quattro. Che idea si è fatto lei? Come si fa? Dunque, guardi, io credo che queste situazioni possano in realtà dipendere da spinte diverse. In molti casi, e quelli forse sono i più negativi, da situazioni di ansia, possono dipendere da situazioni di necessità materiale, perché molto spesso un solo lavoro non riesce a darci l'autonomia economica che si ha. Ecco, qui però, scusi dottore, qua non mi sembra che fosse questo il caso. Sono persone che comunque con un lavoro vivevano, cioè mi sembravano felici di farne altri. Diciamo che nel caso di Matteo a me sembra che il suo sia un discorso di soddisfare comunque una sua passione che nel lavoro principale non riesce a soddisfare, quindi è un discorso di realizzazione, un discorso di bisogni personali. Non tutti noi riusciamo a realizzare bisogni e passioni in un unico contesto lavorativo, e quindi ci creiamo, un tempo si chiamavano hobby, adesso possono diventare delle attività. In questo caso mi pare che sia un po' questo. Nel caso di Giulia mi pare che c'è una ricerca di realizzazione da parte sua, cioè sono diverse cose. L'insegnamento della ginnastica artistica, l'ha detto, la ginnastica per me è una passione, la politica è una passione, vorrei però fare la giornalista. Mi pare che sono tanti episodi comunque di un percorso che lei fa, di voler trovare una sua strada. La leggerei un po' in questa chiave. E senta dottore, ma come si spiega che noi tutti diciamo sono stressato, non c'ho tempo, non ce la faccio, e poi troviamo tempo per fare due o tre cose? È quasi un paradosso. Ma guardi, il discorso dello stress va visto in questo modo. Lo stress io lo paragonerei al respiro, intanto perché c'è sempre. Ogni cosa che noi facciamo, ogni attività in risposta o per esigenze nostre muove lo stress, che è l'energia del nostro corpo nel fare le cose. L'altro esempio, perché il respiro? Perché il respiro noi normalmente respiriamo senza rendercene conto, però possiamo il respiro prenderlo sotto controllo, quindi possiamo lo stress in realtà gestirlo. E lo stress non è solo un fatto di quantità, è un fatto di qualità. nel senso che se noi facciamo nella bilancia dello stress, io descrivo quali sono le forze in gioco, i fattori principali sono quattro. Quindi io posso fare delle cose con passione, con desiderio, lavorare 13 ore, 14 ore al giorno e paradossalmente non essere stressato. Dottore, senta, sì, un po' così, anche un po' con leggerezza e per gioco, che non siamo un programma medico qui, ma certo, se io che faccio lavoro adesso mi mettessi in testa di farne anche un secondo, a cosa dovrei stare attento? Che domande dovrei farmi? Allora, la domanda che si dovrebbe fare è, intanto evidentemente le energie devono essere che lei spende, deve poterle in qualche modo recuperare, perché anche se fa le cose con passione, come stava dicendo Matteo, dice effettivamente ho dovuto un po' rallentare, perché è evidente che la passione ci dà molta energia, però non è infinita la nostra energia, quindi se io evidentemente, come dire, eccedo, poi in qualche modo devo recuperare, quindi un bilancio è un po' come un discorso economico, un bilancio complessivo poi alla fine ci deve essere. L'altra domanda è a quali aspettative, a quali bisogni reali risponde questo fatto, perché la società oggi ci preme molto a fare mille cose contemporaneamente, no? Ci spinge in questa direzione. È un bisogno nostro o è un bisogno indotto? Mi dovrei un po' chiedere questo, no? Fare delle domande a se stessi. Io ringrazio il dottor Lazzari, che appunto vi ricordo è anche autore di un libro che si chiama La bilancia dello stress, e io vorrei sentire anche dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24. E allora sentiamo un po' qualcuno che magari ha 2, 3, 4, 5, non lo so, tutti questi lavori, sentiamo come fa, se ce la fa, e sentiamo Diego, pronto? Oh, buongiorno! Allora Diego, che cosa fai come prima e come seconda attività? Allora, naturalmente, dunque, io sono libero professionista, anch'io agente di commercio, vendo componenti meccanici industriali, questo è il mio lavoro principale, ovviamente quello più importante. Il mio secondo lavoro in realtà è un'attività, un hobby remunerativo. Che cosa e fai? Ormai da 12 anni nel tempo libero sono allenatore di squadre dilettanti di calcio e di giovani calciatori. A che livello alleni, scusa? A livello dilettantistico, quindi si parla, per quanto riguarda i grandi, terza categoria, seconda, prima, queste categorie fino alla Serie D, le cosiddette categorie dilettanti. Ma lo fai quando, scusa, la sera? La sera, gli allenamenti, o il sabato o la domenica, le partite di campionato. Scusa, io credo quanti di anni rappresentare hai? Qualche migliaio di come media allenatori. Diego, quanti anni hai? 50. Una domanda, per un cinquantenne che allena in terza categoria, c'è l'idea di poter salire, di far carriera ancora? Certo, altro che. Certo, è sempre un ruolo ambizioso il nostro. È chiaro che si tenta sempre, si cerca sempre di migliorare di campionato in campionato, di anno in anno, con l'esperienza, con il lavoro sul campo, con l'informazione, con i corsi, perché qui bisogna essere anche qualificati. Più si va su di categoria, più ci vuole una qualifica. Infatti io sono in possesso di una qualifica nel settore tecnico di Coverciano, il famoso patentino, Achille. Il primo, sì. Ma una curiosità mia, sei il terzo che sentiamo che fa praticamente l'agente, il venditore. È un mestiere che è così, diciamo, flessibile, che vi dà tempo di fare le cose, diciamo. Certo, bravissimo, hai colto nel segno, perché fare il libero professionista vuol dire gestirsi il tempo, gestirsi gli spazi, per cui poter operare in certi orari dove magari se tu fai un altro lavoro da dipendente sei obbligato a non poter fare niente fino alle 6 di sera, fino alle 18, fino Diego, alle 19, eccetera. Dimmi una cosa, ma voi fate a quel livello, fate anche i ritiri, l'estate, le amichevoli, cioè tu vai certo, in vacanza? Certo, e come sì, fai? Ovviamente non come a livello professionistico, però si fanno queste cose, si fanno. E tu sarai anche pieno di calciatori che fanno due lavori, immagino. Certo, ecco. Certo. Vabbè. Anche loro sono dilettanti, per cui lavorano di giorno e sono calciatori nella Lega Nazionale Dilettanti di sera, di giorno, di sabato, domenica. Beh, migliaia di doppio lavoristi, ma non in senso cattivo, in senso buono. Sentiamo Stefano, pronto? Pronto? Stefano, eccoci. Sì, buongiorno. Io vado un po' in controtendenza, nel senso che non credo molto a questa iperattività, forse magari anche dato dal fatto dei tempi, la gente vuole un po' darsi un tono. Credo anche che sia molto facile, nel senso che seguire 3-4 passioni o 4 attività insieme è facile farlo, nel modo in cui non se ne fa bene neanche una, ecco. Ma tu quante attività fai? Sì, ho lavoro e una passione sportiva. A quel punto può andare bene, ma le persone che fanno 2, 3, 4 attività, credo che poi alla fine insomma siamo tutti esseri umani, a meno che non sono, diciamo così, aiutati da qualcos'altro, il tempo è quello. Quindi è quello, tu dici, può... concentriamoci su una cosa e facciamo bene. Parla bene magari. Qual è la tua passione sportiva? Io faccio pugilato. E quanto ci dedichi? Ci dedico il weekend e qualche volta la sera, insomma. Va bene, quindi comunque insomma dici, ho bisogno del resto della mia giornata e di tutta la mia forza per fare almeno una cosa bene. Mauro, pronto? Sì, pronto. Allora, anche tu hai due attività? Avevo due attività, innanzitutto ciao a tutti. Io sono un alto dirigente d'azienda e fino a 3 anni fa facevo il vice sindaco del mio paese. Il mio comune. Senza citare, numero di abitanti? 11.000 abitanti. Beh, insomma, comincia ad essere, mi richiedeva tanto impegno e l'ho fatto per 10 anni. E alla fine hai mollato? Poi ho mollato e ti dico che mi piaceva molto, era una passione, e però mi sono accorto quanto più bella sia la vita quando c'è il tempo per potersi dedicare a se stessi, alla famiglia, ai figli, e quindi non essere presi, coinvolti troppo dalle passioni. Quindi magari farsi un ciclo. Farsi solo un ciclo, ecco, non pensare che l'iperattivismo sia la panacea, sia il bene per tutto. Ecco, io ora so che anche, tra l'altro, ci sono molti ascoltatori che, sentendo la storia di uno che per 10 anni ha fatto la politica e poi ha lasciato, dicono, finalmente ce n'è uno. Sergio, pronto? Che meraviglia, il prossimo dei pupetti sarà nostro. Pronto? Pronto, Sergio? Eccomi qua. Ecco, l'avamo per. Sergio, benvenuto, sei su Radio 24. Buongiorno a te. Allora, tu hai una doppia attività? Io ho anche 3, direi, ad essere sincero. In sintesi, diccele, poi ne parliamo. Allora, in sintesi ti dico subito, io faccio il manager durante il giorno, poi faccio il team manager per un... Pronto? Il team manager? Faccio anche il musicista. No, scusa, abbiamo perso la seconda. Manager, team manager per che cosa? Per una squadra di calcio. E poi? E poi faccio il musicista. Il musicista. E sono 3 lavori retribuiti? Beh, sono tutte 3 cose che guadagno un X, sì, per certo. Hai pensato di sceglierne una alla fine? Bah, no, anche perché li faccio talmente bene tutti insieme che funziona bene così. Ah, vedi, anche questa è la tua risposta. Non ti confondi mai? Non c'è un momento in cui sei manager e pensi all'allenamento, in cui sei sul palco e pensi a un bilancio che devi chiudere? Io penso solamente che quando ti capita di fare questo tipo di gioco con la vita... Io penso che la cosa che ti esalti di più sia il concetto, poi fondamentalmente, che tu ti rendi conto tutti i giorni di essere organizzato di tempo in una maniera stratosferica, per cui... Quindi sei manager anche di te stesso e della tua giornata. Quando lo fai il musicista, per curiosità? Di notte. Tutte le notti o ogni tanto? Lo faccio 3 volte fisso la settimana e poi dipende se ci sono... più concerti da fare, no? Hai mai incontrato un tuo dipendente o un tuo cliente? Sì. Sul palco. Che genere di musica fai? Io faccio rock progressiva. Quindi ti hanno visto lì con la chitarra? Io sono un batterista. Ecco, quindi ti hanno riconosciuto. Beh, me l'ho riconosciuto più che altro perché c'è il concetto che dovevo identificare nel gruppo chi ero. Poi dopo, dal punto di vista di riconoscermi immediatamente, è difficilissimo perché ti travesti, ti cambi. Durante il giorno sei vestito chiaramente con gli abiti talari tipici di chi fa questo mestiere. Poi se fai il team manager in una squadra di calcio c'hai una tuta sportiva che ti identifica all'interno del gruppo. Quando fai musicista esce fuori assolutamente retro, per cui io sono senza capelli, per cui uso le bandane, gli occhiali particolari. Cioè, uno spettacolo. Sei un po' come Clark Kent che si toglieva gli occhiali, si spostava i capelli da un lato e nessuno lo riconosceva più. Grazie, Sergio. Le grandi domande della seconda vita. Allora, noi chiudiamo come sempre con le grandi domande della seconda vita. Questa settimana vi stiamo chiedendo, e potete risponderci a girodivita@radio24.it, qual è il mestiere che vorreste fare oltre al vostro, con cosa vorreste svoltare, tra virgolette. Massimo, ad esempio, ci dice che è sul punto di mettersi a fare l'artigiano e ci farà sapere. Laura ci dice che vorrebbe fare l'annusatrice di profumi. Io l'ho dovuto cercare perché pensavo fosse tipo, non so, il collaudatore di materassi, quei mestieri. finti. E poi c'era su Facebook, ad esempio, Rondine, che ho il vago sospetto che non sia un nome vero, che ci dice che vorrebbe aprire il barino sulla spiaggia in un posto dove splende sempre il sole. Continua ad ascoltarci, perché settimana prossima penso che ne parleremo. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questo giro di vita, in questo caso doppio. Io ringrazio Fabrizio Intonti che mi accompagna sempre e mi assiste, ringrazio anche la parte tecnica, Valerio Rocchetti, bellissimo, dopo 7 giorni. E niente, cosa dirvi? Io potrei, dopo aver sentito tutte queste telefonate, dirvi che il prossimo che vi dirà "non ho mai tempo per fare niente", potreste rispondergli "trovati un secondo lavoro". Se poi vi mette le mani addosso, io non mi assumo responsabilità. A domani! Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.